Baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Gianfranco Fabi. E tu non ci puoi far niente, niente. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Mercoledì 31 dicembre 2008, 7:16 minuti. Mancano poche ore alla mezzanotte, alla grande festa, al grande stappare di champagne, al dire addio a questo 2008 che forse ricorderemo più come un anno di crisi che come un anno di gioia, però ognuno lo ricorderà secondo le proprie dimensioni, secondo i propri amici, secondo i propri affetti, secondo i propri desideri. E cominciamo appunto facendo gli auguri di buon anno, gli auguri di buon 2009, che i desideri si compino, gli amici crescano, che gli affetti soprattutto possano portare a ciascuno quello che ognuno vuole, quello che ognuno aspetta. E gli auguri fanno anche parte dell'indice dei quotidiani di oggi. Molti quotidiani aprono i loro editoriali facendo un po' un bilancio di quello che è passato, parlando soprattutto della crisi, ma cercando di mettere anche fiducia, di portare anche fiducia sul futuro. Ovviamente i titoli maggiori, i titoli principali sono dedicati ai temi internazionali, alla drammatica situazione in Medio Oriente, Gaza, ore decisive, tregua o nuovi raid, si chiede Avvenire, stop alla guerra, Israele disponibile, sì, è il titolo grande del secolo XIX. Anche il Corriere della Sera apre con Gaza, l'Europa chiede la tregua, Israele apre a uno stop di 48 ore, così come Repubblica, Israele apre una tregua di 48 ore, è lo stesso titolo del quotidiano romano, ma Repubblica ha un titolo più piccolo di apertura, quello che noi giornalisti chiamiamo un po' un falchettone sopra, il titolo più grande di Israele, dedicato agli interrogatori di Napoli, gli interrogatori di Rutello e Iervolino su Romeo, a cui dà grande spazio anche La Stampa. Il suicidio di Nunes, un sussulto di dignità, Rutelli prende le distanze da Rosetti, Romeo ha finanziato la Margherita, probabile, però il suicidio di Nunes, un sussulto di dignità, è una frase di Rosa Russo Iervolino, che avrebbe detto ai PM. Il sindaco di Napoli definisce sfrantumati, smidollati altri suoi assessori toccati dalle indagini. Dalle dichiarazioni di Rutelli ai PM risulta invece plausibile che Romeo abbia finanziato la Margherita. Rutelli respinge le scuse e scarica Lusetti. Questa è La Stampa. Un titolo quasi sempre sulla guerra in Medio Oriente, quello del Messaggero, Gaza, Israele apre alla tregua, Frattini, Tel Aviv ha diritto all'autodifesa, D'Alema critico. Del tutto diverso invece il titolo principale de Il Giornale, è un'intervista a Silvio Berlusconi, l'avete sentito anche nel GR delle 7, che occupa la seconda e la terza pagina del quotidiano. Vi dico che cosa farò nel 2009, dice Silvio Berlusconi, subito il federalismo, sconfiggerà l'evasione, la riforma della giustizia darà anche benefici economici, Veltroni si è consegnato a Di Pietro e sta uccidendo il PD, lo vedremo tra poco. Il Manifesto ha un titolo grande, L'anno che muore, l'anno che scritto in nero e muore scritto in colore arancione, per sottolineare che la morte purtroppo è il protagonista di questi ultimi giorni, la morte dei palestinesi a Gaza, quarto giorno di raid su Gaza, quasi 400 morti, scrive Il Manifesto. L'ONU accusa Israele, scioccanti atrocità, armi micidiali contro inermi. Olmert è solo l'inizio, l'Unione Europea tratta la tregua per i soccorsi e chiede osservatori per blindare Gaza, o più osservatori, scusate, per blindare Gaza. Frattini in Parlamento, Hamas terrorista, ma D'Alema lo smentisce, senza Hamas non è possibile la pace. Questo era Il Manifesto. Spiragli di tregua è anche il titolo del Riformista, con un commento di Andrea Romano, da Frattini, finalmente, parole chiare. Ma comincerei guardando un po' agli auguri che si fanno e alle speranze. Comincerei da Avvenire, gli auguri di una notte oltre le nostre piccole speranze, di Marina Corradi. Auguri, scrive Marina Corradi, ci diciamo in queste ore, auguri, ci rispondono gli altri nell'imminenza di questa fine e inizio dell'anno che ci attende come una frattura del quotidiano fluire delle cose. Un fermarsi per un attimo del tempo, tempo per poi riprendere a scorrere. Uguale, ma una inconfessata attesa. Diverso come nuovo è l'anno che comincia, intonso. Auguri, scrive ancora Marina Corradi su Avvenire. Felice anno, ci ripeteremo dunque perché così si usa. Ma se un bambino di quelli piccoli, nell'età in cui vergini di abitudine chiedono ancora il perché di tutto, ci domandasse ma auguri di cosa? Ecco, forse questa domanda provocherebbe un imbarazzato sorriso, come davanti a una questione attorno a cui da tempo non facciamo più troppe domande. Insomma, si dice auguri a Capodanno e vuole dire ti auguro buona salute, serenità e soldi e fortuna. Non è forse per queste attese che fanno affare i venditori di oroscopi, per l'ansia di sentirsi annunciare non straordinarie promesse, ma semplicemente un lavoro, un figlio che si rimetta a studiare, un affare che vada in porto. Auguri dunque di ragionevoli private speranze di cui vivere nell'anno che viene. E conclude il suo editoriale Marina Corradi su Avvenire. Auguri dunque di che cosa? Di tutto ciò di cui abbiamo da uomini bisogno, di affetti e lavoro e amici intorno a farci coraggio. Ma auguri prima di questo di riscoprire la profondità della domanda che è in noi. Con la domanda autentica verrà la certezza, giacché, come intuì Pascal, tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Era Marina Corradi, l'editoriale su Avvenire. Sull'Unità il direttore Concita De Gregorio. Fa gli auguri tenendoci per mano. Questo il titolo del filo rosso dell'editoriale nella seconda pagina dell'Unità, che in prima pagina ha una copertina dedicata a tutti i protagonisti di questa annata, da Obama a Rita Levi Montalcini, di cui l'Unità ha un'intervista nelle pagine interne, lo vedremo se avremo tempo tra poco, al caso Eluana, alla vittoria di Josefa Idem alle Olimpiadi, alla foto di Napolitano. Tante foto che compongono il nostro mondo, un mondo appunto che viene visto da Concita De Gregorio anche attraverso un'intervista a Maria Levi Montalcini. E nel filo rosso, tenendoci per mano, l'editoriale Concita De Gregorio scrive: il 2009, dicono gli analisti, sarà l'anno più difficile del decennio, il peggiore della nostra storia recente. Ci arriviamo allenati, i segnali di lutto e di tempesta sono sotto i nostri occhi. Oggi non ne faremo l'elenco, piuttosto domandiamoci: sappiamo dove andare a cercare le forze per affrontare il futuro? La forza morale soprattutto, perché tutto questo, scrive Concita De Gregorio sull'Unità, tutto questo passerà, ma c'è qualcosa che si consuma in un modo che appare irrimediabile. Parlo della fiducia, nei propri simili, nelle persone che ci governano, nei vicini, alla fine in noi stessi. Il fatto è che quando mancano le conferme ci si stanca di credere che la fatica sarà premiata, che i nostri sacrifici ci renderanno più libere le vite dei nostri figli. Il problema non è più soltanto chi usa sistemi scorretti e illegali. Il problema non è chi salta la fila. Il problema è che la fila è proprio scomparsa. Si è dissolta, assieme all'idea che osservare le regole sia il comportamento degli onesti e non degli idioti. Ne abbiamo continui esempi, anche nelle nostre piccole vicende della vita quotidiana. Concita De Gregorio nel diario dell'Unità. E tra gli auguri appunto per il nuovo anno posso sottolineare quelli di Massimo Gramellini su La Stampa. Vi auguro un felice 2010. Già, 2010. Quanto al 2009, qualcuno dice che sarebbe meglio scavare una trincea e passargli sotto il più in fretta possibile. E ancora Massimo Gramellini sulla Stampa, che scrive: è il primo anno che ci fa paura ancor prima di cominciare. Gli indovini dell'economia prevedono che sarà terribile, considerato quanto ci prendono, questo è l'unico indizio di ottimismo. Sarà un momento brusco di passaggio, che premierà chi saprà resistere e cambiare, adeguandosi meglio degli altri al mutamento di realtà. Quel che avevo da dirgli e da dirvi si trova all'interno del giornale, affidato due pagine di oroscopi. Il buongiorno, invece, stavolta mi piacerebbe lo faceste voi. E Massimo Gramellini scrive ancora sulla Stampa, provando a formulare tre desideri: il primo per voi stessi, il secondo per la persona che amate e il terzo per il mondo. Non conta quanto siano grandi, basta che vi riempiano il cuore. Metteteli negli spazi qui sotto e credeteci, almeno mentre li scrivete. Ora entriamo pure nella tormenta del 2009 con bavero alzato e le parole coraggiose di Georges Bernard Shaw. La missione di ogni uomo consiste nell'essere una forza della natura e non un grumo agitato da guai e rancori che recrimina perché l'universo non si dedica a renderlo felice. Era la riflessione di Massimo Gramellini sulla Stampa. Un'altra riflessione sempre sulla Stampa che vi propongo è quella di Enzo Bianchi, il priore della comunità di Bose, che abbiamo avuto ospite a Natale in Viva Voce, che ha scritto da poco un libro che si chiama Il pane di ieri e che intitola questo titolo editoriale sulla Stampa Il pane di domani, e proprio rifacendosi appunto a questo suo successo. E si chiede che cosa possiamo fare per impastare il pane di domani, quali ingredienti ci lasciano e quali ci consigliano gli eventi dell'anno che si conclude. E afferma poi, appunto, nella conclusione di questo articolo, Enzo Bianchi: ecco un ingrediente fondamentale per il pane quotidiano di domani, ridestare nella società, a cominciare dai giovani, la cultura dei valori. Anche qui dobbiamo interrogarci su cosa siamo stati e siamo capaci di trasmettere, quali modelli culturali veicoliamo con i nostri comportamenti e le nostre scelte, quali miti dominanti, quali aspirazioni sollecitiamo delle nuove generazioni, a che cosa aneriamo, in che cosa crediamo, c'è qualcosa per cui vale la pena spendere e eventualmente dare la vita? Se non siamo capaci di narrarlo con le nostre vite, se lasciamo che sia percepito come reale, quanto più artificiale si può creare nei laboratori di ogni tipo, non possiamo più stupirci se la connessione sociale si rivela fragile quanto un segnale digitale. Ripartire quindi, conclude Enzo Bianchi, da alcuni principi fondamentali che le generazioni che ci hanno preceduto hanno saputo trasmetterci. Ancora buon anno, ci eravamo lasciati alla prima parte leggendo un articolo di padre Enzo Bianchi, Il pane di domani sulla Stampa. Leggiamo la conclusione. Enzo Bianchi chiedeva di partire dai principi fondamentali che le generazioni che hanno preceduto hanno saputo trasmetterci. Quali sono questi principi? Ecco, Enzo Bianchi dice: la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, i principi fondamentali della nostra Costituzione, le regole basilari della convivenza civile devono diventare elementi vitali delle nostre società, elementi cioè capaci di ridare vita perché vissuti nel quotidiano. Sì, conclude Enzo Bianchi, occorre una grande consapevolezza degli errori commessi ma anche delle enormi potenzialità nascoste nel cuore e nell'agire di ciascuno. Occorre per domani il lievito della fiducia nell'umanità, credere nell'uomo, nella sua grandezza, credere che possiamo umanizzare, rendere migliore la nostra convivenza se solo accettiamo di guardare oltre il nostro interesse immediato, di tendere lo sguardo verso un orizzonte comune, verso una speranza che è tale solo se giunge ad essere condivisa. Il pane di domani sarà allora ancora più gustoso perché intriso del sapore di ieri. Enzo Bianchi sulla Stampa, questo richiamo alla fiducia, richiamo ai valori fondamentali, richiamo alla fiducia che c'è in molte parti dei quotidiani di oggi, il senso di recuperare una fiducia nel futuro, una fiducia nel tempo. E proprio l'anno della fiducia è l'editoriale di Nicola Porro su Il Giornale. Un certo pensiero compiaciuto e antimodernista vorrebbe celebrare con la fine di quest'anno la fine di una generazione, il collasso di un sistema, la rivincita della sobrietà sugli eccessi. Commerciando buoni sentimenti si vuole gettare alle ortiche il secolo americano. Non si va per il sottile. Obama, tra pochi giorni, effettivamente presidente a Washington, è un'icona perfetta. Nonostante la sua congenita appartenenza all'elite del suo paese, si è magnificamente trovato a rappresentare il vero spartiacque tra il secolo breve, terminato con un decennio di ritardo, e il secolo sostenibile. Le guerre, ancora Nicola Porro sul Giornale, continueranno, ma saranno indispensabili. La crisi si farà sentire, ma le sue radici saranno nel passato. L'ambiente verrà ferito, ma con giudizio. Insomma, rischiamo una grandissima e planetaria presa per i fondelli. Più modestamente, nell'anno che si chiude, è venuta a mancare una spezia fondamentale per la nostra convivenza, la fiducia. Nel mondo ricco e occidentale, l'ingrediente attorno al quale si costruiscono i rapporti, essenzialmente di scambio e dunque di convivenza. Dall'inizio degli anni Ottanta abbiamo vissuto in uno straordinario sogno in cui l'economia è cresciuta senza sosta. Ha fatto due piccoli stop di pochi mesi, nel 90 e nel 2001, ma è sempre andata inesorabilmente avanti, creando posti di lavoro, ricchezza diffusa, tecnologia. Si è accumulata così una bolla di fiducia. Le banche sono arrivate a prestare 30 volte ciò che avevano in cassa. I cittadini americani hanno utilizzato le proprie case come dei bancomat. In Europa, la certezza che il domani sarà migliore dell'oggi, invece dei privati, ha contagiato i governi, che hanno speso ciò che non avevano. Ci siamo fermati. Il CAC di Madoff, che ha fatto fuori 50 miliardi raccolti in giro per il mondo sulla parola, rappresenta la plastica raffigurazione della fine di un ciclo. Ma occorre, scrive ancora Nicola Porro sul Giornale, ripartire proprio riscoprendo la pietanza fondamentale della nostra convivenza occidentale, la fiducia, appunto. Non si devono spazzare via le macerie di una guerra, si deve riprendere a pensare che produrre, consumare e investire sono gli attrezzi fondamentali del nostro progresso. E gli attrezzi, appunto, per il progresso, su come crescere, c'è un articolo di Giovanni Sartori, un editoriale sul Corriere della Sera, quale può essere il tema per ridare forza, spazio alla crescita economica. L'idea dei soldi, come manna, è il titolo di questo articolo di Giovanni Sartori. Il 2009 sarà il primo anno, temo, scrive Giovanni Sartori, di una tempesta economica perfetta. Una tempesta perfetta destinata a durare finché non torneremo a capire come nasce il denaro, cosa fa ricchezza. Grazie a una scuola che non è più magistra vitae, i giovani non lo sanno di certo. Per loro è come se piovesse dal cielo, come la manna. Per loro il denaro ci deve essere e basta. Ma è così, purtroppo, anche per i non più giovani. Nell'ottica di quasi tutti, la ricchezza c'è, così come c'è l'aria o il mare. Se manca è come se... Se manca è perché è mal distribuita, è perché se la mangiano i ricchi. E nemmeno i ricchi, o quantomeno gli straricchi, ne sanno di più. Berlusconi del mondo sanno benissimo fare i soldi per sé, ma perché i soldi ci siano, e come da cosa zampillino, non è un problema che li interessi. L'economia come scienza, scrive Giovanni Sartori in questo editoriale sul Corriere della Sera, ha cominciato a deragliare con la sua politicizzazione, diciamo, di sinistra. Una politicizzazione che la induce a anteporre il problema della distribuzione della ricchezza al problema della creazione della ricchezza. È in questo solco, anche a confondere i due problemi, ed è a questa confusione che ha allevato un'opinione pubblica graniticamente convinta del fatto che la ricchezza ci sia, come ci sono che so le piante, e che il vero guaio sta in come viene distribuita, cioè mal distribuita. E conclude Giovanni Sartori in questo articolo: come quando usciremo dalla gravissima recessione nella quale siamo peccaminosamente incappati, nessuno lo sa. Il punto da capire sin d'ora è che il diritto a qualcosa sussiste solo se c'è la cosa. Il diritto di mangiare presuppone che ci sia cibo. E il diritto ai soldi presuppone che i soldi vengano creati. Si conclude qui Giovanni Sartori in questo richiamo al fatto che la produzione di ricchezza e quindi il lavoro sta al fondo della nostra società, che è una società capitalistica, ma che, come forse giustamente ricorda il primo articolo della Costituzione, è fondata sul lavoro, perché è solo dal lavoro che viene data la ricchezza. Di tutt'altra prospettiva, possiamo dire, è l'articolo del Manifesto, di cui Valentino ha parlato, parla dell'anno, come dicevo, il titolo è l'anno che muore e non è che l'inizio, è il titolo di questo editoriale del Manifesto. Anno che viene, anno che va, un passaggio normale ma dominato da una crisi anomala e poco dominabile. Questa crisi maturata sotto i nostri occhi annebbiati è ora esplosa e ci domina. E come abbiamo imparato sui libri, una crisi del capitalismo, del sistema che cerchiamo di avversare, scrive Parlato sul Manifesto, ma gli effetti più disastrosi li ha su di noi. Innanzitutto sui lavoratori, diventati non più oggetto di sfruttamento e di profitto come ai bei tempi quando sostenevamo la lotta di classe, ma spesa inutile, quindi da mandare un po' in cassa integrazione e poi la mendicità. La crisi restringe, elimina i margini di trattativa. La crisi del capitalismo, ma la prima vittima è il suo antagonista, la classe operaia, con lei tutte le speranze di crescita e di benessere. Le crisi economiche producono anche la guerra, che è un modo estremo di riaffermare il potere dei ceti dominanti. E qui Parlato parla della guerra, appunto, in Medio Oriente, affermando la sanguinosa aggressione dello Stato di Israele verso i disperati della Striscia di Gaza, va collocata in questo quadro di crisi e di oscurità del futuro. Che cosa fare? Si chiede poi Valentino Parlato. Difficile rispondere. Bisogna tentare, come questo giornale facciamo da più di 38 anni, non cedere alle tentazioni elettorali e stare più attenti ai fatti. E qui parla proprio del Manifesto, che sta conducendo una propria battaglia per la sopravvivenza, una sottoscrizione pubblica per superare un momento difficile, e Parlato dice: siamo riusciti con il sostegno di lettori e compagni a uscire vivi dal 2008. Ora per il 2009 siamo impegnati in una lotta ancora più difficile e per questo dovremo intensificare il rapporto con i nostri lettori. Il Manifesto, una voce ovviamente dissonante rispetto a molte altre voci, una voce che vede ancora la lotta di classe come un elemento fondamentale della società, una voce comune. Comunque libera, che ha diritto di esistere e che è bene che esista. E proprio parlando della sinistra, in un tono molto ironico, ovviamente, come gli è usuale, Libero intitola la sua prima pagina al migliore dell'anno, da il suo premio, è Walter Veltroni. La motivazione nell'articolo di Vittorio Ferti: Walter Veltroni in pochi mesi ha demolito il Partito Democratico, estromesso i comunisti e i verdi dal Parlamento, ha fatto stravincere Berlusconi, uno come lui. merita un monumento e, scrive Vittorio Feltri, anche quest'anno non facciamo eccezioni, puntuali, consegniamo il premio l'uomo dell'anno. Lo abbiamo assegnato a Walter Veltroni perché nessuno come lui è stato capace di demolire la sinistra, la ridotta a tappetino sdruscito della politica italiana, consentendo a Berlusconi, nonostante i guai del suo governo, di salire al massimo storico dei consensi. Veltroni si è rivelato un autentico fenomeno, una calamità naturale davanti alla quale i compagni hanno allargato le braccia rassegnati a scomparire, travolti dalla bufera, non reagiscono più, hanno accettato il loro destino. Non possiamo, scrive ancora Vittorio Feltri su Libero, che congratularci con lui per l'opera svolta a favore del paese, finalmente liberato dall'antico giogo marxista. Egli infatti, oltre ad aver esaltato le poche virtù dell'esecutivo di centrodestra, è riuscito a compiere un'impresa che alla luce dell'esperienza sembrava irrealizzabile, l'eliminazione fisica dei comunisti. E Vittorio Feltri continua: la sola cosa che ci ferisce è l'ingratitudine di Silvio nei confronti di chi, senza nulla chiedere in cambio se non lo straccio di un dialogo, gli ha agevolato l'ascesa al vertice del ministero. Berlusconi, seguendo il nostro esempio, dovrebbe darsi da fare affinché a Veltroni venga attribuita una decorazione a valor civile, se non addirittura eretto un monumento in piazza Montecitorio. Coraggio, signor Presidente, scrive ancora Vittorio Feltri su Libero, non è mai troppo tardi per riconoscere al segretario democratico il merito indiscutibile di aver sterminato i compagni senza colpo ferire. Ecco un articolo ovviamente intriso di paradossi, di ironia, questo di Vittorio Feltri sulla sinistra, un articolo che però appunto ricorda anche le difficoltà di questa stessa sinistra, che pur sta cercando di recuperare e di ritrovare una propria posizione, come le è lecito e come le è doveroso. E vorrei soffermarmi, dato che siamo entrati sul fronte della politica, sull'articolo di fondo di Lafranco Vaccari sul Secolo XIX, l'attesa di Obama e l'Italia impantanata. E scrive Vaccari: l'anno internazionale 2009 non comincia domani, come si sarebbe indotti a credere sulla base delle convenzioni gregoriane in vigore dal 1582, comincia invece il 20 gennaio, un martedì, quando Barack Hussein Obama, il 44esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di origine afroamericana, giurerà sulla scalinata del Campidoglio a capo del Mall di Washington. Ma la conclusione dell'articolo di Vaccari, che parte appunto ricordando questa grande svolta americana, è tutta dedicata all'Italia, dopo appunto un lungo elenco di temi internazionali. L'elenco non finisce qui, scrive Vaccari, cominciare a metterci le mani e allentare, se non addirittura sciogliere alcuni di quei nodi, è la premessa indispensabile a una qualsiasi ripartenza. Da solo, tuttavia, il governo italiano non può illudersi di farcela. Se Berlusconi non vince la sua profonda e a volte giustificata ritrosia a confrontarsi con l'opposizione, non va da nessuna parte. Le riforme da fare sono troppo comprensive, troppo estese, troppo trasversali per presumere da riuscire a portarle a casa colpi di maggioranza semplice. E ancora Gianfranco Vaccari sul Secolo XIX conclude: l'alta considerazione, a volte ingiustificata, che il Presidente del Consiglio ha di sé non è sufficiente a cambiare questo Paese. Ci si può riuscire cercando un terreno comune, cosa tanto più possibile quanto più condivisa è la consapevolezza che non avremo molte altre possibilità. Se lo si trova, il 2009 durerà molto più dei 365 giorni che gli sono stati assegnati e sarà un ottimo anno. Quindi una condivisione delle responsabilità, questo è il richiamo di Franco Vaccari, direttore del Secolo XIX, e probabilmente sarà anche il richiamo che questa sera ci rivolgerà il presidente Napolitano a reti unificate, compresa Radio 24. Ancora buon anno, sono ancora gli auguri, sono ancora le previsioni, le prospettive, anche se molti dicono è meglio non fare previsioni in questa situazione perché quelle che abbiamo fatto negli anni scorsi le abbiamo completamente sbagliate, quindi è meglio non farne. Fare le previsioni è facile, indovinarle molto più difficile. E Romano Prodi sul Messaggero, un editoriale: la grande riforma dei mercati per non passare da una crisi all'altra serve un leone, non un gattino. E scrive l'ex presidente del Consiglio: facendo un bilancio dell'economia mondiale del 2008, l'unica conclusione possibile è che più presto finisce l'anno, meglio è. Ma non c'è un indicatore che vada bene, non la crescita, non il commercio internazionale, non l'occupazione. Solo il calo dell'inflazione è un elemento positivo, ma l'inflazione cala proprio perché tutto il resto va male. Si tratta di una crisi generalizzata e imprevista. nessuno l'aveva immaginata così profonda e diffusa. Qualcuno, scrive ancora Romano Prodi, aveva previsto tensioni nei mercati finanziari, altri lo scoppio della bolla immobiliare, ma nessuno pensava che l'intreccio di tutti questi fatti potesse portare a una caduta così rapida e diffusa dell'economia mondiale. E in conclusione, chiedendosi come se ne può uscire, Romano Prodi scrive: ci vorrà tempo, perché anche la riforma di Bretton Woods era stata preceduta da 2 anni di intenso lavoro tecnico e politico, ma non vi è altra strada per mettere lo sviluppo del mondo su un binario virtuoso. Se infatti rimarranno regole nebulose e frammentarie, mercati grigi in cui tutto si ricicla, istituzioni finanziarie che non rendono conto a nessuno della propria attività, non potremo che passare da una crisi a un'altra crisi. Non bisogna nascondere il fatto che questa riforma è compito difficilissimo. Qui Romano Prodi parla della riforma delle istituzioni di Bretton Woods, delle regole internazionali. Così difficile che quando si è cercato di promuoverla nell'ambito dell'Unione Europea, gli interessi e i veti dei diversi paesi hanno trasformato il progetto di un leone in un disegno di un gattino. Se questo avviene nell'ambito europeo, figuriamoci come sarà difficile riscrivere queste regole di comportamento e di trasparenza a livello mondiale. Ma di regole, scusate, Romano Prodi nell'editoriale del Messaggero di oggi, di regole a livello mondiale parla anche Giacomo Vaciago nell'editoriale del Sole 24 Ore, uno scatto di fantasia per tornare a crescere. Nel linguaggio di tutti i giorni, scrive Giacomo Vaciago, recessione e crisi sono sinonimi e per molti la crisi è solo una recessione grave. In realtà si tratta di cose diverse e diversi sono quindi i necessari rimedi. È meglio avere le idee chiare quando discutiamo di ciò che sarebbe bene fare per superare le attuali difficoltà dell'economia globale e italiana. E conclude questa sua analisi Giacomo Vaciago. A questo punto la crisi che si sovrappone a un'economia già in recessione rappresenta una sfida interamente nuova per i governi del pianeta. Non a caso, a metà novembre, alla riunione di Washington, i paesi del G20 hanno innanzitutto preso l'impegno di rimettere in moto lo sviluppo economico come responsabilità comune. È dal rispetto di questi impegni a Washington e dalle politiche in seguito adottate da tutti i governi che ci aspettiamo la correzione della grande paura che si è manifestata a fine settembre. E scrive ancora e conclude Giacomo Vaciago. Rispetto a questo scenario è dunque insufficiente continuare a ragionare come se fossimo solo in recessione. Non si può pensare che una temporanea minor domanda, ad esempio di automobili, si risolva nel giro di qualche mese e che nel frattempo basti un po' di incassa integrazione di settimana corta che è poi lo stesso. Non è questa la radicale novità che rappresenta per gli Stati Uniti il programma dell'amministrazione Obama. Un diverso sentiero di sviluppo per tornare a crescere. Qualcosa che non si è visto né a Bruxelles, né a Roma, né nel resto d'Europa, conclude Giacomo Vaciago in questo suo, diciamo quasi appello a cercare delle nuove strade, delle nuove formule per risolvere una crisi certamente difficile, anche perché imprevista e anche perché somma elementi molto diversi su di sé, elementi che prima si presentavano in maniera sparsa e che adesso si presentano tutti insieme. E proprio su come affrontare la crisi, come vedere questo 2009, c'è un consiglio, un'istruzione per l'uso da parte di Mario De Ario, con la sua consueta saggezza, sulla stampa, e dice: chi può non smetta di spendere, siamo sotto un pendio franoso, alcuni massi sono venuti giù ma altri potrebbero rotolare da un momento all'altro. Ecco la situazione dell'economia mondiale e soprattutto dell'America. Nell'immediato il neopresidente, pur con programmi innovativi, non la potrà cambiare. Almeno per alcuni mesi dovremo convivere con un dollaro debole, borse impaurite, produzione in calo. E conclude Mario De Ario questa breve nota sull'economia per il 2009. Per difendersi dal 2009 gli italiani devono reagire allo sconforto e alla paura del futuro. Non serve un nuovo consumismo che darebbe un sollievo momentaneo, ma piuttosto questa semplice regola. Chi ha le risorse non abbassi la propria spesa per semplice paura, ma continui a fare i consumi soliti, magari recuperando quelli non fatti negli ultimi mesi. Un consiglio semplice di Mario De Ario: non lasciarsi prendere dalla paura, ma chi può spenda come faceva di solito. È inutile fare cambiare adesso le abitudini di vita, che possono solo aumentare appunto le difficoltà dell'economia. Sul fronte dell'economia segnalo un articolo di Leonardo Maugeri sul Sole 24 Ore sul petrolio. È un'analisi della situazione del mercato petrolifero mondiale, un mercato petrolifero che nell'ultimo anno ha avuto degli scossoni molto forti. Il prezzo del petrolio è arrivato quasi a $150 per poi scendere sotto i $40. Cosa avverrà dei prezzi del petrolio? Leonardo Maugeri dice: fare previsioni decisioni sui prezzi del petrolio non è difficile, è impossibile. Il mercato è ciclico e non c'è limite a picchi e cadute. I dati sui consumi, scorte e fabbisogni sono incompleti, eppure gli outlook di agenzie e sedicenti esperti fioccano. Ecco perché, alla luce di quello che è successo negli anni precedenti, sono molte le cose su cui anche per il 2009 non bisogna fare affidamento. Molti luoghi comuni sul petrolio e in prospettiva, Maugeri afferma, è ragionevole ritenere che il prezzo di equilibrio del petrolio nel lungo termine si collochi su livelli molto più alti di quelli registrati negli ultimi 20 anni del secolo scorso, $18-20 a barile, cioè di pochi anni fa. Ma è difficile dire di quanto potrà essere più alto senza prima capire quale sarà la struttura normale dei costi e tutte le altre condizioni di contorno, a partire dai consumi effettivi di greggio. In ogni caso, come non esiste un tetto razionalmente prevedibile ai prezzi del petrolio quando questi crescono, così non esiste un limite al ribasso quando questi crollano. Potremmo aver già toccato il minimo oppure no. Solo nel lungo periodo l'equilibrio si ristabilisce, ma nel breve l'irrazionalità domina, rendendo più plausibili di tante spiegazioni l'osservazione che in un vecchio fumetto di Disney Pippo rivolge a Topolino. Giunto alla fine della discesa di una collina, Pippo si volta indietro e, rivolgendosi all'amico, osserva: «Sai, è strano come una discesa vista dal basso assomigli a una salita». Dipende tutto dai punti di vista, cerchiamo di concludere questa rassegna stampa con alcune note forse un po' diverse. Ecco, ricordavo prima l'intervista di Concita De Gregorio sull'Unità a Levi Montalcini, a colloquio con la senatrice a vita, il premio Nobel, che il prossimo 22 aprile compirà 100 anni. Auguri, senatrice. Anche se il tempo, spiega, ha una scansione più dilatata e più contratta insieme. Un anno di 100 è piccola cosa, ma nella piccola cosa, scrive Concita De Gregorio, ho trovato spazio le 6.700 borse di studio per le bambine e le donne d'Africa della Fondazione Montalcini. E il lavoro incessante di una scienziata che ha scoperto i fattori di crescita nervosa e dedicato la propria vita a decifrare i meccanismi del cervello. La galassia mente la chiama e tuttora invita i più giovani, i ricercatori umiliati della riforma dell'università, a studiare, applicarsi, perché la conoscenza ha bisogno di coraggio. E Rita Montalcini è una donna che non ha paura. E ne leggo le ultime due risposte. Se avesse potuto frequentare più assiduamente un uomo del suo tempo, chiede Concita De Gregorio a Rita Levi Montalcini, su chi avrebbe fatto cadere la sua scelta? Non c'è dubbio, risponde Albert Einstein. Il segreto della creatività risiede nella curiosità, nella mente che rimane bambina, diceva. Un grande insegnamento, restare bambini. Oltretutto, ride, anche Einstein appartiene alla cosiddetta razza inferiore, come me. Qual è stato, l'ultima domanda, la più grande invenzione del secolo? Un farmaco? Uno strumento di diagnosi? Ma no, è stato senza dubbio internet, l'informatica, il nuovo Magellano dell'economia digitale, la comunicazione globale. E Rita Montalcini conclude: ma come mai, mi chiede questo, lei non usa internet? E questo esempio di una senatrice a vita, grande scienziata, premio Nobel, Rita Montalcini, che compie 100 anni quest'anno, è forse l'augurio per questo 2009, l'augurio migliore. Un 2009 che si prospetta difficile dal punto di vista economico, ma anche difficile dal punto di vista climatico. E allora vorrei concludere con una lettera pubblicata sul Resto del Carlino, La Nazione il Giorno, a cui risponde Viviana Ponchia. In questi tempi opachi l'unica cosa che ci mette di buon umore è questo inverno, vero e cattivo. Gli altri anni, se avevo nostalgia di strade bagnate, dovevo riguardarmi un noir francese e cercare la neve dei risvegli di Marco Valdo. Sorrido ai profeti di sventura che predicavano per l'Italia bollenti scenari da Natale a Miami. È Luca Montaldi, una lettera a cui risponde Viviana Ponchia. La città non c'era più, sostituita da un foglio bianco. La neve di Calvino per il suo Marco Valdo era caduta sui rumori, anzi sulla possibilità stessa di fare rumore. Primo sollievo, inconvenienti, camminare sul pack col tacco 12, non saper più montare le catene o saltare le pozzanghere, armeggiare con gli ombrelli come calciatori maldestri. Eppure gli studiosi del clima insistono, il 2008 sarà archiviato tra gli anni più caldi di sempre. L'ipotesi che i ghiacciai morenti diventano alpeggi per zanzare non è scongiurata, però intanto ha ragione lei, corriamo a quest'attimo gelato. Rischiattiamoci dal senso di superiorità dei nonni fieri dei loro mitici inverni con l'acqua rappresa ai piedi del letto. Riprendiamoci fino al prossimo anticiclone il senso senso delle stagioni, considerando la guerriglia del cielo come un messaggio affettuosamente narcisistico da parte della natura. Non ne posso più delle vostre macchine e delle vostre lavastoviglie, ma non permetterò che trasformate la terra in una palla di gas, e ci nevico sopra. Chi si infila dentro le tempeste diventa più forte, come lei si consola, come il meteo. Mi ricorda quella scena del favoloso mondo di Amelia, l'angoscia del tempo che passa. Ci fa parlare del tempo che fa. E allora godiamoci anche il gelo, la neve di questi giorni. Parliamo del tempo, parliamo però di quello che ci interessa più da vicino. E con questo, auguri di buon 2020.